Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. 4 italiani su 5, ci dicono i dati We Are Social, giocano ai videogame, dall'app passatempo ai bestseller da console. Il 60% di chi è connesso lo fa dal telefonino e 1 su 8 segue il live streaming di altri giocatori. Un fenomeno in forte espansione, un contesto, uno scenario in cui vi raccontiamo la storia di una startup italiana, prima piattaforma al mondo, che permette alle persone di donare senza spendere giocando ai videogiochi. E poi dalla farmacia letteraria alla libreria su ruote, focus sui trend dedicato a libri e retail. Riflessione finale dedicata al tema del femminile, dal Me Too alla sorellanza fino all'inclusione LGBT, partendo da piccole donne. Signori, per prima cosa il gioco ci chiede di scegliere se vogliamo giocare per la Repubblica il lato chiaro oppure per l'Impero Sith il lato oscuro. Noi siamo sempre i buoni in Dungeons & Dragons, siamo buoni e onesti in City of Heroes, siamo gli eroi in GTA, paghiamo sempre le prostitute e non le massacriamo mai con una mazza da baseball. Allora quelle donne sono prostitute. Avevi detto che raccoglievano fondi per la ricerca sulle staminali. Fare del bene giocando ai videogiochi. Ci ha pensato una startup italiana, si chiama Gamindo, ha vinto il premio nazionale Innovazione in Senato, un percorso di accelerazione in Silicon Valley alle spalle, trasforma il tempo trascorso giocando sullo smartphone in donazioni per gli enti no profit. Ci racconta tutto il CEO e founder Nicolò Santin. Gamindo è la prima piattaforma al mondo che permette a chiunque di donare senza spendere giocando con i videogiochi. Questi videogiochi hanno la particolarità che sono brandizzati e appunto le aziende investono un budget dove più le persone giocano e più soldi vengono donati in beneficenza. Giochi brandizzati, hai detto, un sì. Unico brand per un unico gioco o più brand per un singolo gioco? Come funziona? Allora, in questo momento noi abbiamo, ogni gioco è associato a un singolo brand. Ad esempio c'è un gioco che abbiamo fatto con Discovery Channel riguardo a uno dei loro cartoni, Oggi Maledetti Scarafaggi, dove appunto questo gioco è legato al brand Discovery e dove abbiamo appena donato 1.000 euro alla Onlus legata all'ospedale dei bambini Buzzi di Milano, perché appunto più giocavi al gioco di Discovery e più donavi all'ospedale. Quindi è una piattaforma e un'app anche, immagino. Bravissima. Sì, esatto, è un'applicazione che si chiama appunto Gamindo, scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play, dove l'utente non deve mai inserire carte di credito o altro, gioca a videogiochi completamente gratuiti, dove però al termine del gioco riceve queste gemme che hanno un valore economico appunto e che vengono donate al mondo del no profit. Quali giochi ci sono sulla piattaforma? Che tipologia più che altro? Sì, allora, i giochi sono di diverso tipo, nel senso che in gergo tecnico sono casual game, quindi giochi molto semplici, ma che hanno degli stili, uno richiama un po' Candy Crush, uno 2048. In Italia ci sono più di 25 milioni di persone che giocano ai videogiochi e l'età media sono 34 anni, quindi abbiamo cercato di fare videogiochi come quello di Discovery Channel per un target più giovane e altri videogiochi invece per un target di persone più adulte, quindi diciamo dai puzzle a giochi più di abilità, un po' di tutti i tipi. Sono sviluppati da voi? Sono sviluppati da noi, abbiamo un team, noi siamo in 8, abbiamo una parte di ragazzi come ad esempio il mio socio, il cofondatore Matteo, e un altro ragazzo in particolare Samuele, che si occupano proprio dello sviluppo dei giochi, e poi gli altri ragazzi si occupano della della piattaforma più in generale. Quindi voi vi rivolgete in chiave B2B ai brand che vogliono sponsorizzare e in chiave B2C a chiunque abbia voglia di giocare. Bravissima, bravissima. B2B appunto sono le aziende a cui noi offriamo una soluzione per promuoversi in modo coinvolgente, perché appunto il videogioco è una forma molto interattiva, divertente e dove c'è l'attenzione del singolo utente, ma al tempo stesso la possibilità di fare un'attività di brand reputation, perché appunto dono e gioco con l'azienda. Da quanto siete online, che numeri state facendo? Allora, noi siamo usciti dalla fase di testing da un paio di settimane, nel senso che dopo aver vinto il Premio Nazionale Innovazione e aver fatto 3 mesi in Silicon Valley, accelerati da Plug and Play, siamo tornati, creato il team, iniziato la fase di testing. Ora abbiamo superato le 5-6 mila persone che giocano all'interno della piattaforma ed è molto interessante il dato che abbiamo oltre 30 minuti di tempo medio per utente giornaliero. Nonostante questo, noi comunque ci dissociamo totalmente da quello che è il mondo appunto del consumo eccessivo, utilizzo eccessivo dei videogiochi, e infatti noi abbiamo inserito un limite massimo di 20 gemme al giorno. Terminate quelle non puoi più giocare e donare. Queste 20 gemme al giorno, poniamo che uno giochi ogni giorno per una quantità moderata come avete definito voi, alla fine in quanto si traducono come donazione? Allora, nei progetti speciali la gemma ha il valore di 1 centesimo, mentre negli altri progetti dipende e il valore è inferiore. Nonostante questo, noi cerchiamo in tutti gli aspetti della piattaforma di sottolineare che il vero valore in Gamindo non è dato tanto da quanto dà il singolo, ma l'insieme di persone con lo stesso obiettivo. Quindi, ad esempio, nel caso della donazione del Buzzi, sono state 50.000 o 100.000 le gemme donate che hanno permesso la donazione di 1.000 euro. Quindi non è tanto il 10-15 centesimi che magari dona una persona in un giorno, ma quello che tutti assieme facciamo. Gli abbinamenti come funzionano? Sono automatici, gioco, beneficiario, oppure si può scegliere? Sì, allora, nei casi di progetti speciali, come è stato con Discovery Channel, sì. Nel caso invece dei vari giochi che abbiamo nella piattaforma, ora ne abbiamo una decina, si può scegliere tra vari progetti. Ultimamente abbiamo avuto molta gente, quindi i progetti si sono consumati alcuni. Ora c'è ad esempio Plants for the Planet, appunto dove più gemme donate più alberi vengono piantati, e l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, abbiamo inserito la settimana scorsa, e quindi 2 progetti diversi dove si può donare giocando a qualsiasi tipo di gioco. Che obiettivi ti sei dato, vi siete dati, Nicolò? Allora, l'obiettivo nel breve termine è sicuramente, ora essendo startup, puntiamo a un round di investitori e a far crescere il più possibile la piattaforma, e l'obiettivo è quello di raggiungere almeno i 200.000 utenti in quest'anno. Nel medio-lungo termine, invece, l'obiettivo è proprio quello di rivoluzionare il mondo della beneficenza, quindi permettere a chiunque di donare senza spendere e divertendosi, che questa è un po' la mission che ci siamo dati, e quella quindi di dare la possibilità a chiunque ha un telefono, e ormai ce l'hanno quasi tutti, di avere un impatto sul mondo anche senza mettere mano al portafoglio. Ora ci fermiamo per una piccola pausa, ma restate con noi perché nella seconda parte parliamo di libri, delle piccole librerie che resistono all'e-commerce e di piccole donne. Tra pochissimo. Essere e avere. Mi stavo domandando, mi interrogavo sul mio lavoro. Ecco, e mi sono... Voglio dire, ma che cosa faccio io esattamente? Tutto quello che faccio è mandare avanti una libreria per bambini. Tutto quello che fai è una cosa incredibilmente nobile, lo sai? Beh, no, non lo so. Kathleen, io mi sento come se... Sei un fiore solitario che se ne sta alto a fluttuare coraggiosamente tra le corrotte sabbie del commercio. Focus sui trend. Tornati agli sconti per le grandi, incentivi fiscali per le piccole. Anche il governo è sceso in campo per tutelare le librerie indipendenti. Una legge contestata dall'Associazione Italiana degli Editori, che vuole però scongiurare il ripetersi di chiusure di librerie storiche come la Paravia a Torino, la Libreria del Viaggiatore a Roma oppure la Lirus a Milano. Veri e propri presidi culturali e civici. Oggi allora vogliamo raccontarvi i casi più originali, più innovativi di librerie che ce la fanno, che cercano il rilancio. Lo facciamo insieme a Sabrina Donzelli di Future Concept Lab. Ciao Sabrina, bentrovata. Bentrovata a te e a tutti. Il nostro viaggio inizia a Firenze, raccontaci. Sì, il nostro viaggio inizia proprio a Firenze con una piccola farmacia letteraria, dove diciamo la cura è attraverso la lettura, attraverso l'immaginario che si apre grazie alla lettura di libri. Una novità è aperta da dicembre scorso a cura di Elena Molini, quindi con l'idea di, in modo anche così gentilmente ironico, di offrire una particolare farmacia dove non si prescrivono farmaci, unguenti e rimedi vari, ma libri, soluzioni letterarie per problemi reali. Ecco, questo recita il motto di questa piccola libreria. È un piccolo spazio, 35 metri quadri, e si può ovviamente consultare un catalogo di libri, ma divisi per categoria a seconda, diciamo, un po' della patologia, fra virgolette, delle emozioni. Anche questi rimedi letterari, da classici ad altri libri, hanno ognuno un proprio bugiardino con le varie prescrizioni e indicazioni. Sono delle soluzioni, anche queste, di creatività, no? E c'è la possibilità anche, naturalmente, di creare dei propri bugiardini ad hoc per delle idee regalo, quindi c'è una bella interazione con il pubblico che nasce. Molto divertente. Ci spostiamo negli Stati Uniti con una location molto particolare. In questo caso la biblioteca è stata ricavata nel coro di una chiesa nel Bronx, in una zona, come dire, ad alto disagio sociale e in un luogo già attivo per l'accoglienza e il sostegno in varie forme di homeless. Questa biblioteca, con un design molto bello, molto piacevole, proprio uno studio di architettura di New York, è stato convocato per questa realizzazione nella parte alta, un po' come dire di sottotetto, di una chiesa adibita a centro di accoglienza, quindi sotto un po' spoglia, tutta bianca, quindi è proprio ricreare un ambiente anche accogliente. È dedicata ai bambini, poi alle mamme e ai bambini fino ai 9 anni. Quindi l'idea anche di ricreare, attraverso quello che è uno spazio di intimità, che è quello della lettura, un luogo dove riconoscersi anche un po' a casa, per ricreare uno spazio protetto, ecco, dove l'immaginazione e la riflessione dei libri possa consentire anche qua degli elementi di cura. Ora in Cina, e anche in questo caso rimandiamo alle immagini sulla nostra pagina Facebook, perché meritano davvero. È un caso dove il libro diventa anche materiale compositivo, quindi non soltanto di sceneggiature ma anche di scenografie molto particolari. Questa libreria si chiama Zhonghue ed è nella città di Chongqing, nel sud-ovest della Cina, una grande città, e questa libreria è molto vasta, al contrario di quella di cui parlavo prima di Firenze. Questa è su 1300 metri quadrati. Come ti dicevo, il libro è materiale compositivo e creativo, anche per dar vita a questi ambienti studiati da uno studio di architettura che si chiama X-Living. Giusto qualche rimando così per immaginare questi spazi. La lobby è ricoperta di specchi e quindi gli scaffali si riflettono sul pavimento, creando un tunnel di libri, un invito a percorrere il tunnel ed entrare nei mondi della fantasia e della narrazione. Poi c'è una sala di lettura per bambini con scaffali colorati, ma anche qua un intreccio di scaffali, di percorsi, di giochi di colori. E nella sala principale principale c'è questa grande sorpresa, una doppia scala, un soffitto con specchi che crea dei rimandi, sembra di entrare in un'opera di Escher, con delle scale dove sono sistemati scaffali e libri, un po' così all'infinito, percorsi che si sdoppiano, che si rimandano, è molto, molto interessante, molto suggestivo. Chiudiamo con le librerie su ruote, diciamo così, bellissimi esperimenti di librerie itineranti che si stanno moltiplicando in tutta Italia. Ecco, dalla Cina torniamo in Italia e torniamo anche nei piccoli borghi italiani, in particolare parlo di due casi, diciamo collegati per l'uso dello stesso veicolo, una Pecar, una Pecar, e quindi qui c'è un po' un rimando all'ape laboriosa che viaggia di fiore in fiore in pollina e permette nuove fioriture, in questo caso le fioriture delle idee, della cultura e dell'educazione. Due casi veloci, il primo in Basilicata, il maestro Antonio Lacan da diversi anni porta la cultura nelle comunità più piccole e isolate, lui forte di 42 anni di servizio, diciamo, come maestro, con la sua Pecar trasformata in biblioteca itinerante raggiunge molti paesini della Basilicata e anche della Puglia. La sua idea era quella di mettere le ruote ai libri e l'ape, come dire, un veicolo che da lui è definito umile, semplice, laborioso, un po' come le vere e proprie api, e lui l'ha trasformato in biblioteca, quindi si apre un tetto a casetta e sono tre, come dire, messaggi che lui vuole portare con questo veicolo e con questa soluzione. Anzitutto allegria e piacevolezza, e poi la forma casetta suggerisce un senso di rifugio, di relax, e poi avvicinare persone e territori con fantasia e creatività. Dal sud Italia passiamo al nord, all'entroterra di La Spezia, con un'altra iniziativa su un'ape. Anche qua la metafora dell'ape è stata inseguita per volare di borgo in borgo e in questo caso promuovere la cultura dell'inclusione. Questa è un'iniziativa che si chiama Ape Librai, che è partita da una libreria nata 12 anni fa a Ceparana, in Liguria, il Libro dei Sogni, che è tuttora gestita da persone diversamente abili, quindi già la cultura dell'inclusione, rovesciando degli stereotipi ed un senso del limite della disabilità, era già presente nel progetto iniziale della libreria, e più recentemente questo lavoro con l'ape, portando in borghi diversi anche qua nutrimenti letterari, laboratori anche naturalmente, esperienze di teatro ed altro, lavora sempre in questa lunghezza d'onda, perché il proprio catalogo comprende anche molti volumi per bambini, ma anche libri per persone con deficit uditivi, visivi e disturbi diversi dell'apprendimento, quindi accogliendo anche con una proposta la diversità di mondo che si avvicina a loro. E poi altrove sono sulle ruote di biciclette, di cargo bike o addirittura su autobus inglesi a due piani. Sabrina Donzelli, grazie, alla prossima. Un saluto a te, ciao. Il consumautore. Sono Meg, Amy, Beth e Joe. Voglio farmi la mia strada nel mondo. Nessuno si fa strada da solo, men che meno una donna. Devi trovare un buon partito. Ma tu non sei sposata, zia March. Ma che c'entra? Io sono ricca. Una nuova commedia scritta dalla signorina Joe March. Le donne hanno una mente, hanno un'anima e non soltanto un cuore. Io voglio essere il massimo o niente. Hanno ambizioni, hanno talenti e non soltanto la bellezza. Sono così stanca di sentir dire che l'amore è l'unica cosa per cui è fatta una donna. Sono così stanca di questo. È l'ennesima trasposizione cinematografica di un classico che ha più di 150 anni. Parliamo di Piccole donne, una storia che ha ancora molte cose da dire. Francesco Morace, ben trovato per la nostra riflessione finale. Buonasera Maria Luisa. Sì, devo dire che il film, così come anche il libro, è ancora oggi straordinariamente attuale. C'è poi anche questo intreccio, l'importanza della scrittura, no? E nello stesso tempo l'emancipazione femminile. Sì, vediamo che ormai il tema del femminile è ormai davvero la base di tanti ragionamenti e riflessioni, sia nel mondo dei consumi e delle aziende, sia nel mondo della società civile. Quello che credo importante, che Piccole donne dimostra, è che questo bisogna farlo pensando alla contemporaneità, quindi non tanto una rivendicazione rispetto a ciò che non è stato, ma invece una forza che comunque il mondo femminile ha nelle sfide di oggi, quindi accanto a noi uomini, accanto ai loro figli. Cioè emerge con forza lo straordinario talento femminile nell'affrontare situazioni di difficoltà che altrimenti davvero sarebbe difficile risolvere. E in questo segnalo, perché è molto bello anche il nome che si sono scelte, questa associazione che si chiama Le Contemporanee e che proprio ha accolto questo aspetto. Cioè bisogna essere sicuramente più consapevoli della propria unicità femminile, ma farlo in modo contemporaneo, quindi affrontando insieme agli uomini i veri problemi della società. Tra l'altro il pregio che è stato sottolineato di questa pellicola è il fatto di aver evidenziato come questa storia di educazione sentimentale e di genere risulti inclusiva anche per il mondo LGBT in modo molto contemporaneo. Jo del resto è un modello senza confine di genere, è una lettura consigliata nella sua forma originaria sempre di più anche non solo alle bambine ma anche ai bambini. Assolutamente, pensiamo a quanto tutto questo fosse impensabile più di 150 anni fa, no? Quindi sono, io credo, quelle opere, quei grandi classici immortali e che più si va avanti e più acquisiscono valore, perché sono un messaggio universale che oggi noi possiamo rileggere con gli occhi della contemporaneità. Grazie a Francesco Morace, grazie a Paolo Corleoni in regia, Essere Avere torna domenica prossima, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.